America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. But they built these studios, CNN. Whoop. Hey, the camera just went off, I can't imagine. This phony NBC television network. Beh, questa è una registrazione di qualche tempo fa e Donald Trump al suo Victory Tour in Iowa, però mi sembrava significativo farvelo ascoltare perché continua ad esserci questa polemica fra destra e sinistra sul ruolo delle televisioni, dei giornali, sul ruolo delle fake news, Donald Trump che protesta, e ho voluto farvelo ascoltare perché, beh, come dire, sentite qual è la reazione della folla. Cioè Donald Trump continua ad avere una sua base politica, una sua base elettorale molto forte, molto spontanea. Sono ancora con lui. E dunque è in questo contesto che noi dobbiamo immaginare e collocare le dichiarazioni che lasciano sbigottiti, sbalorditi i miei colleghi, i giornalisti, gli osservatori, i politici democratici, quando Donald Trump fa delle battute, come dire, sopra le righe, sicuramente sopra le righe, magari pure un po' cattivelle e certamente in alcuni casi di cattivo gusto, come il tweet che ha fatto ieri e che ha scatenato, beh, non posso dirvi, ha scatenato una marea di reazioni negative contro Mika Brzezinski, che fa la trasmissione Morning Joe, una trasmissione molto seguita con Joe Scarborough su MSNBC. È una trasmissione che ha criticato, che ha attaccato Donald Trump, e quindi subito ieri si è scatenato con un tweet, ha detto: ho sentito Morning Joe, che tra l'altro ascolti molto scarsi, un programma di fallimentari, ho sentito che parlava male di me. Bene, io non lo guardo più. E poi fa capire che i due conduttori hanno un quoziente intellettivo basso, dice, scrive, questo è il suo tweet, che Mika è pazza e che Joe è uno psicopatico. Ecco, devo dire, è a briglia sciolta Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d'America, che poi aggiunge con un attacco personale che ha lasciato esterefatti, beh, una buona parte di americani, dice in questo suo tweet: per tre giorni ha voluto infilarsi alla mia festa di Capodanno questa amica, perché poi mi attacca, poi però vuole venire con me e voleva unirsi ai festeggiamenti. E qui invece poi che vuol dire? L'ho vista e ho visto che stava sanguinando pesantemente per via di un lifting che si era fatto al volto, e naturalmente le ho detto di no. Ecco, questa storia della plastica facciale, del lifting e del sangue, come dire, è qui che Donald Trump poi va sopra le righe. C'è stata polemica, il portavoce di NBC News ha subito scritto su Twitter: non ho mai immaginato un giorno in cui avrei pensato e contro la mia dignità rispondere al presidente degli Stati Uniti d'America. Mentre la MSNBC, che è la rete, diciamo, un po' più aggressiva della NBC, dice: un giorno triste per l'America, quando il presidente trascorre il suo tempo facendo bullismo, mettendo e sferzando attacchi personali invece di fare il suo lavoro. Ecco, la risposta c'è stata anche da parte di Mika Brzezinski, che tra l'altro è la figlia di Zbigniew Brzezinski, che è stato consigliere per la sicurezza nazionale negli anni di Carter, grande intellettuale della politica internazionale, grande esperto, che purtroppo è mancato appena alcune settimane fa. E cosa ha fatto? Come ha risposto? Ha risposto semplicemente con un'immagine nella quale implicitamente scherza sulle dimensioni delle mani del presidente americano. Sapete che Trump si era molto arrabbiato quando qualcuno aveva detto che aveva delle mani molto piccole rispetto al suo corpo, e che in genere le mani molto piccole sono anche, come dire, un significato parallelo di altri attributi che in genere gli uomini portano con sé. E lei ha messo questa fotografia che raffigura una confezione di questi Cereals, di Cheerios, con un bambino che cerca di afferrarne uno, e la scritta: Made for little hands, fatti per mani piccoline. Come dire, Trump sei un infantile. Insomma, sul piano simbolico c'è un po' tutta la risposta, non è scesa nella polemica, lo ha semplicemente preso un pochino in giro. Casa Bianca imbarazzata, ovviamente sorpresa, perché non si sa mai come reagire a questi tweet imprevisti del presidente. Sarah Huckabee, per esempio, è intervenuta, che un portavoce della Casa Bianca, parlando con Fox News, ha detto: and I think he's been very clear that when he gets attacked, he's going to hit back. I think the American people elected somebody who's tough, who's smart, and who's a fighter. And I don't think that it's a surprise to anybody that he fights fire with fire. Ecco, voglio chiarire, dice Sarah Huckabee, non credo che il presidente sia mai stato qualcuno che viene attaccato e non risponde. Questo è un presidente che combatte il fuoco con il fuoco e che certamente non permetterà di essere preso in giro dai media e dall'elite liberali. Ecco, questa è una risposta ovviamente che ha una sua giustificazione, ha un suo senso. Però, come dire, bisogna capire come questa risposta poi viene articolata, perché quando si parla di sangue, quando si fanno attacchi personali, beh, si scade su livelli, devo dire, non esattamente adatti a quello che è la presidenza degli Stati Uniti d'America. Il fatto è, per questo ho fatto ascoltare l'audio iniziale, e beh, che la sua base davanti a queste battute di Trump si infiamma, si entusiasma, lo segue. E non è un caso se i repubblicani hanno vinto 4 elezioni, mentre i democratici, che credevano di prenderle in massa queste 4 elezioni in degli stati, erano elezioni di sostituzione, ma elezioni abbastanza importanti in Georgia e in altri 3 stati, e credevano di prenderle, perché insomma c'era questa immagine del presidente americano con un indice di popolarità molto basso, il partito repubblicano allo sbando che non riesce a mettersi d'accordo per approvare la riforma sanitaria, i repubblicani hanno il controllo sia della Camera che del Senato che della Casa Bianca, eppure sono paralizzati dal punto di vista dell'azione legislativa. Ecco, dovevano esserci tutti i presupposti per vincere. Il problema qual è? Beh, che i democratici stanno peggio, si riuniscono, cercano di così sostenersi l'uno con l'altro dicendo che Trump non è possibile, è uno scandalo che sia il presidente degli Stati Uniti, ma non capiscono che ci vuole un messaggio, non capiscono che Donald Trump ha, come dire, fatto scattare un nervo nell'opinione pubblica americana, e dunque a quello bisogna rispondere. Non basta dire non ci piace Trump, a un certo punto se ne andrà, bisogna capire che dopo Trump l'America non sarà più la stessa, e dunque i democratici devono cambiare anche loro per cercare di portare un messaggio che riesca ad ispirare in qualche modo. C'era riuscito Bernie Sanders, lo ricordate, aveva trascinato una gran quantità di giovani con sé, ma poi non è riuscito a imporsi su Hillary Clinton. La campagna elettorale è finita, Sanders è tornato a fare il senatore, e dunque, manca un leader, manca una linea politica, manca una visione. Io credo che invece di scandalizzarsi davanti alle battute di Donald Trump, i democratici, se davvero vogliono agire seriamente, dovrebbero invece immaginare un contrattacco con una visione, non con lo scandalo, non con l'affermazione impossibile che una persona di questo genere sia alla Casa Bianca. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Intanto un presupposto: da ieri è possibile applicare, dopo una decisione della Corte Suprema, decisione temporanea perché poi ci sarà una sentenza vera e propria, ma comunque una decisione che parzialmente accoglie il decreto di Donald Trump che vuole impedire l'immigrazione di persone che arrivano da certi paesi islamici. Vedremo, ci saranno dimostrazioni, perché da oggi avremo gli aerei con queste persone che scendono, che saranno di nuovo arrestate, saranno fermate, la gente andrà per strada, e chissà che non intervenga qualche altro giudice, ma a questo punto potrà fare poco perché ha parlato la Corte Suprema, e dunque nessuno potrà dire più nulla. E dunque mi è venuto in mente di Kanye West, Can't Tell Me Nothing. I had a dream I could buy my way to heaven. When I awoke I smit that on a necklace. I told God I'll be back in a second. Man, it's so hard not to act reckless. To whom much is given, much is tested. Get arrested, guess until he get the message. I feel the pressure under more scrutiny. And what I do, act more stupidly. Bought more jewelry, more Louis V. My mama couldn't get through to me. The drama, people suing me. I'm on TV talking like it's just you and me. I'm just saying how I feel, man. I ain't one of the Cosbys, I ain't go to Hill, man. I guess the money should have changed them. I guess I should have forgot where I came from. Wait till I get my money right. And you can't tell me nothing, right? Excuse me, was you saying something? You can't tell me nothing. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì, a questa settimana che arriva del 4 di luglio, in cui l'America celebrerà, una combattuta festa dell'indipendenza.